Buongiorno ragazzacci, siete fantastici, non saprei vivere senza Manera ormai e nemmeno senza te, Milan. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. Leonardo ha il brillantante. Il pappagallo è rosso. Zen fa le fusa. L'aquila vola. Mario è tornato. La mucca non dà latte. È cessata la pioggia. Eccoci qui, signori, in diretta dalla ridotta di Viale Monza. Anche oggi riparte una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan con i nostri messaggi speciali in codice, impossibili da capire, uno dei quali soprattutto Mario è tornato. Signori, Mario Calabresi, buongiorno, eccoci qua, ciao Mario. Buongiorno, però qui, non vorrei che fosse collegato al fatto che la mucca non dà la è la nostra Radio Londra particolare, è stupenda questa cosa perché la radio è meravigliosa in questo. Io sono nella ridotta di Viale Monza, tu dove sei fisicamente? Sempre dietro Parco Solari, diciamo. Nella ridotta di Parco Solari, esatto, va bene. È Radio Resistenza, signori, è tornato con noi Mario Calabresi e riparte una settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Fammi salutare Carmelo Lauricella lì in regia, Danilo Di Trani oggi è in assistenza, che Dio ce la mandi buona, ovviamente è un interista, quindi l'abbiamo fatto entrare così di straforo. È interista Mario, Danilo in regia, è interista, ce lo teniamo così. Vabbè. In saluto anche Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, che è dalla ridotta del Canton Ticino, direttamente dalla ridotta del Canton Ticino. E che dire, caro Mario, facciamo subito l'entusiasmo di Conte. Dai, perché dobbiamo partire? Vai, Carmelo. Enthusiasm about the future. Va bene, ci sono anche tutti. Vi faccio salutare anche da mio figlio che prima di andare a scuola. Ciao. Cioè, va bene, ciao Mattia. Adesso vai a scuola perché è iniziata la lezione virtuale di matematica. Capisci, Mario? Cioè, si vive così, ma avresti mai pensato di affrontare questa situazione nella vita? No, nessuno. Penso era proprio fuori da qualunque tipo di schema. E infatti, erroneamente, non l'avevamo messo in nessun tipo di previsione. Perché se ci ripensiamo oggi, avere smontato per anni gli ospedali, la sanità, non aver assunto medici per un sacco di tempo, sono cose che viste oggi sono folli. Eppure c'era chi lo diceva. Ieri ha circolato molto un discorso fatto 5 anni fa da Bill Gates, che diceva quello: abbiamo visto la SARS, abbiamo visto Ebola, prima o poi arriverà una pandemia che si diffonderà di più, dobbiamo essere pronti, dice abbiamo la NATO, abbiamo gli eserciti, ma perché non facciamo una piccola NATO di medici e di pronti interventi, eccetera, eccetera. Dice costerebbe meno che molti interventi di difesa, eppure sembrava una cosa talmente lunare, talmente distante che nessuno l'ha fatta. E oggi siamo sì, così, io... tutti chiusi nelle case, incredibile. Incredibile. Io voglio con invitare, chiamateci. Sfogo dei balconi. È bella questa sfogo dei balconi. Molto. Sai che noi alle 9:30 avremo Andrea Bocelli, un grande della musica. Sì. Ieri ho letto che la Scala perde 1 milione di euro la settimana, la Scala, ma pensate, eppure la gente si incontra nei balconi, questi sono i nuovi social, i balconi. È bella questa cosa, sì. Mario, i nuovi social. Ecco, intanto perché uno nei grandi cortili si affaccia gente che uno non ha mai visto, non immagina neanche che esista. Esatto. Però gente che si saluta, eccetera, eccetera. Ieri sera di fronte a me nel cortile una famiglia ha messo musica dance a palla e c'era un sacco di gente che uno non sarebbe mai aspettato che ballava sui balconi. Era un po' come dire fuggire all'angoscia che prende, no? È stupendo. Allora dai, diamo il numero di telefono 800 24 00 24, chiamateci, soprattutto se lavorate, perché ci sono moltissime categorie, i medici, l'abbiamo detto, infermieri, farmacisti, commercianti, autotrasportatori, chi più ne ha più ne metta. Raccontateci la vostra vita oggi, anche al 349 238 6666. Mario, oggi ho visto l'intervista di Conte al Corriere della Sera. Corriere. Si dice: le polemiche lasciamole da parte, ma davvero dobbiamo lasciarle da parte? Senti un paese unito, per esempio c'è questa questione dell'ospedale in Lombardia da creare, le polemiche con la protezione civile, tu vedi questa unità del paese? Diciamo così, non ci dimentichiamo com'era il paese un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, era un paese estremamente diviso, quindi rispetto a qualche mese fa siamo un paese molto unito e anche con un senso di appartenenza, di orgoglio, eccetera. Io credo che le polemiche, proprio quelle con finalità politiche, di cui si sente subito la puzza che uno fa perché poi pensa di averne un ritorno, quelle lì veramente andrebbero messe al bando e chi le fa bisognerebbe segnarsi il nome e ricordarselo in futuro. Detto questo, non è che si può stare zitti. Per esempio, è evidente che la protezione civile era totalmente impreparata a gestire la situazione. Diciamo che da questo punto di vista la Lombardia se l'è un po' ha fatto tutto da sola, grazie al cielo ha una sanità che è all'avanguardia, e questa sanità tra il pubblico e il privato è riuscita a mettere in campo uno sforzo per cui tutti i giorni, anche se certi giorni con un margine molto ristretto, riesce a mettere in campo nuovi posti, cioè a fornire nuove terapie intensive, nuovi posti in terapia intensiva, e quindi sì, a non lasciare fuori nessuno. E si spera che questo famoso picco, le stime del governo lo prevedono mercoledì, cioè nell'allegato, sì, che hanno presentato al documento economico, dicono che dovrebbe crescere fino a mercoledì e poi in Lombardia inizierà a decrescere. Certo, sono stime fatte così, su delle previsioni, non sappiamo se sarà così, c'è da augurarselo, perché se sale ancora di più, sì, davvero è difficile poi reggerla. E poi c'è la questione della disciplina. Guarda, prima di salutare il nostro primo ospite, caro Mario, ti voglio far sentire il governatore De Luca. Io spesso sul governatore De Luca sorrido per i suoi modi molto energici di intervenire. Ieri addirittura ha parlato di Cina, dove hanno fucilato uno come momento, sì, terapeutico. Sì, sì. Sentilo qua, De Luca. In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Noi possiamo regolare con le ordinanze il 999% dei problemi, ma poi deve essere messo in funzione il cervello della gente. A volte sembra di avere a che fare con persone che sembrano ragazzini alla prima comunione. Il cervello, la testa, serve non solo per dividere le orecchie, ma anche per connettere i neuroni, cioè per far funzionare la mente. A parte che sarebbe il 999 per 1000 se proprio vogliamo, esatto, sottilizzare, però va bene. Però a parte sorridere, Mario Calabrese, abbiamo ospite un professore che è spesso ospite con noi, un farmacologo e un nefrologo, e lavora ed è direttore all'Istituto Mario Negri, quindi un istituto di farmacologia importante, ci può dare tante notizie e soprattutto è di Bergamo, è bergamasco. Giuseppe Remuzzi, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Bergamo, si parla di questa città, abbiamo avuto il sindaco Giorgio Gori ospite venerdì scorso, ha fatto molto scalpore con questa frase: scegliamo e si fanno le scelte su chi far sopravvivere. Poi si è un po' corretto, però lei in un'intervista al Corriere ha detto: se fosse per me e dovessero scegliere e io fossi malato, chiederei di intubare tra me e un'altra persona una persona giovane. Ma davvero ci può spiegare questa questione, che messa così fa molto paura a noi cittadini che l'ascoltiamo, Remuzzi? Ma guardi, i medici devono sempre fare tutto per tutti, e questo lo si dice, però bisogna che non diventi retorica. Ci sono delle situazioni di dramma, per esempio le situazioni dei terremoti, per esempio le situazioni delle alluvioni, gli tsunami. Quando facevo il presidente della Società Internazionale di Nefrologia abbiamo creato quello che adesso di moda tutti chiamano task force, insomma un gruppo di persone che si dedicavano a disaster medicine, vuol dire alle medicine dei disastri, e quindi c'erano dei protocolli, come ci si comporta quando hai 10 persone e tu hai la possibilità di salvarne 7, perché è obiettivamente possibile salvarne soltanto 7 perché hai solo un certo numero di infermieri, un certo numero di medici. Cosa fai? Parliamo di guerra parziale. Lei cosa farebbe? Il giudice che giudica, gli avvocati che sono bravissimi a fare tutte queste cose, che si scandalizzano, cosa farebbero? No, ma questo infatti è il tema, allora, Mario, è il tema che ci fa molto paura. Così, si fa così, dedica la massima attenzione a chi ha chance di sopravvivere, ma questo tra l'altro va fatto sempre. Quindi è chiaro che se io mi trovo in una rianimazione come quella di Bergamo, che non ha più nessun posto, dove arrivano 50 malati al giorno, ma questi ragazzi hanno fatto i miracoli, non avete idea di che cosa hanno fatto, tra l'altro molti stanno morendo, oggi è morto un'ostetrica della zona di Alzano, mi pare che avesse 58 anni, quando è fatto proprio tutto, e io mi trovo in quella situazione, io parlo per me, non parlo per altri, è chiaro che se c'è un ragazzo e ci sono io dico... intubate ragazzi. Salvate ragazzi. Mario, questa, Mario Calabresi, è la cosa con cui dover fare il fronte, no? Cioè la scarsità di posti. Sì, questa è la nuova realtà. È la realtà che, diciamo così, che rischiamo, nel senso che fino adesso non ci risulta, almeno a me non risulta che siano state. Perché la paura è quella, l'immagine che molti hanno è arriva mio padre all'ospedale e arriva uno più giovane, staccano il respiratore e lo lasciano morire. Allora non è che le persone vengono abbandonate. No, non funziona così. Appunto, certo. Ma volevo dire, siccome nella fantasia delle persone, poi quando si sentono questi ragionamenti, che sono ragionamenti corretti, che esistono da sempre, c'è la paura, allora succede quello, no? Succede che ci sono delle gradazioni di cure e naturalmente l'intensità di sforzo maggiore viene applicato a chi appunto è più giovane, non ha magari patologie pregresse importanti, cioè tra chi appunto è più giovane e chi è più anziano e magari ha altre malattie. Lo sforzo di fare di intubarlo, di portarlo in terapia intensiva, si cerca di farlo su chi ha più chance. Ce la vuole raccontare, professor Remuzzi, la realtà in questo momento a Bergamo, se può trasferirla agli ascoltatori? Beh, la realtà in questo momento a Bergamo è che ci siamo trovati di fronte a qualcosa che naturalmente nessuno si aspettava. Abbiamo trasformato l'ospedale di Bergamo in un ospedale cosiddetto Covid, si dice, adesso c'è il reparto Covid 1, reparto Covid 2, quindi le medicine, la gastroenterologia, la neurologia, la pneumologia, naturalmente le malattie infettive, sono diventati enormi reparti per trattare pazienti prima che abbiano bisogno di terapia intensiva, quindi di ventilazione o eventualmente di ECMO, che è questo sistema per cui si ossigena il sangue togliendolo, lo passa in una macchina, lo ossigena e glielo restituisce. Queste cose qua comportano il fatto che è stata interrotta tutta l'attività di routine non necessaria, tutto l'ospedale si sta dedicando a questo, in un solo reparto, che peraltro è il reparto di nefrologia, sono concentrati la maggior parte dei pazienti che hanno altre malattie, gli infermieri sono quelli che sono, finalmente si è fatto quello che secondo me si sarebbe dovuto fare da molti anni, i ragazzi laureati in medicina sono dottori. Fatti e finiti. Ecco, lei questo lo dice da sempre, sì, cioè ci sono troppe forze che in questo momento servono, che sono tenute fuori dagli ospedali. Lei no? Pensi se avessimo fatto questa cosa qua, che gli specializzanti la loro specialità la facevano in ospedale con delle persone competenti vicino ai malati e facendo questo che si dice e-learning, cioè imparando attraverso dei sistemi che sono fantastici, perché per esempio il New England Journal of Medicine ha creato dei sistemi per imparare a distanza che sono meglio di qualunque cosa che si possa imparare all'università, perché sono fatte dai migliori medici del mondo. Questi ragazzi, che adesso sono stati costretti a farlo un po' improvvisandosi, sono quelli che stanno tenendo in piedi l'ospedale, perché hanno entusiasmo, hanno dedizione, ci sono sempre, imparano rapidamente. E tra l'altro si immagini che razza di formazione hanno dei ragazzi che in tutta la loro vita saranno capaci di capire perché uno non respira, perché una delle cose difficili in medicina è capire perché uno non respira, ci sono tante ragioni per non respirare. Ma su questo, infatti, al di là delle polemiche, Mario, poi un giorno andrà scritta la storia d'Italia, la sanità, che tutti i governi che si sono succeduti hanno provveduto a fare. Adesso questo forse, da questo forse lo impareremo in futuro, no Mario, che ne pensi di non farlo più? C'è da augurarselo, ma quello che volevo chiedere al dottore Muzzi, in questo momento, provocatoriamente, dove sono finite le altre malattie? Perché appunto interi ospedali, ali di ospedali, la gran parte dedicate appunto al Covid-19 e lei diceva in nefrologia spostati tutti gli altri malati, ma tutto quello che accadeva prima, le operazioni che c'erano tutti i giorni, gli ictus, gli infarti, dove sono? I malati oncologici, le chemioterapie. E si rimanda tutto quello che è rimandabile, la chemioterapia si può fare tra 4 settimane, l'intervento urgente si fa, ma quello, se uno ha una perforazione intestinale si opera, se uno ha un infarto si cura, però tutto quello che è rimandabile, tutto quello che è prevenzione purtroppo, tutto quello che è una malattia che puoi curare, per esempio riusciamo a capire che malattia possa avere una persona senza fare una biopsia renale, non è più… non è la stessa cosa, però ci orientiamo, ecco, allora quello si fa meno di fare una biopsia renale, si dà il farmaco lo fa a casa, ritorna, si telefona per sapere come sta, è sostanzialmente una medicina da guerra. Però volevo dirvi una cosa che prima il dottor Calabresi ha sfiorato, guardate che non si fa e non si dovrebbe fare mai, se uno è un bravo medico, una selezione per età. Vi racconto un episodio. Una volta io sono confrontato con una donna che, se non mi ricordo, ha 80 e rotti anni, mettiamo 86, e ha una valvola che non funziona, la valvola mitralica. Tutto il resto funziona perfettamente, è una donna con un'attività sociale, con dei nipoti, con una vita molto brillante. E i cardiologi mi dicono, no, ma questa ha 80 e rotti anni, non cambiamo la valvola. Allora, uno non può morire per una valvola se tutto il resto funziona. Ha cambiato la valvola, questa donna… il mese scorso andava, insomma l'estate scorsa nuotava. È la questione di dire il malato che non ha chance di farcela, è questo che, con cui non conviene in una situazione drammatica, ma questo secondo me vale anche nelle situazioni normali, io l'ho anche scritto in tante situazioni normali. Noi dobbiamo fare tutto quello che si può fare per tutti, non è l'età il discrimine, è la possibilità di farcela. E insomma i medici bravi lo capiscono, non parliamo dei rianimatori, non parliamo in questo periodo chi ha una possibilità di farcela e chi davvero non ce l'ha. Senta, professore Muzzi, sento e leggo sui giornali parole che ovviamente noi non capiamo e lei conosce molto bene, ritonavir, lopinavir, tocilizumab, sono farmaci che sono usati per altre malattie e si dice possono essere efficaci nel caso del Covid. Lei che ci può dire riguardo alla risposta farmaceutica? I primi due sono quelli che si utilizzavano per l'AIDS, forse fanno qualcosina ma non molto. Il secondo è un inibitore di interleuchina 6, quello che succede è che le persone non muoiono di virus, muoiono perché il virus a livello del polmone si lega agli alveoli, questi sono quei piccoli acini che ci servono per scambiare l'ossigeno tra l'interno e l'esterno, e questi alveoli diventano sede di un processo immunologico infiammatorio perché il nostro organismo vuole combatterlo questo virus, allora manda lì tutte le cellule del sistema immune, le quali creano questa famosa polmonite interstiziale, quindi l'interstizio del polmone tra un alveolo e l'altro è pieno di cellule infiammatorie. È una cosa che succede un po' con quella terapia di CAR-T ed è molto mediata da interleuchina 6, che è una citochina, che è una proteina che ha questa capacità di far dialogare le cellule del sistema immunitario e dire venite lì in tanti perché abbiamo bisogno, vanno lì e fanno un sacco di danno. Quello potrebbe avere delle possibilità. Poi c'è un altro antivirale che funziona per Ebola e che quello è fantastico perché nei macachi che sono stati iniettati con SARS-CoV-2, proprio questo, prima della malattia previene lo sviluppo della polmonite, ma la cosa più straordinaria è che quando la scimmia ha la malattia si cura, non sviluppa una polmonite grave. E allora questo Remdesivir, io ho fatto un grande articolo su tutte queste cose sulla lettura del Corriere di 2 o 3 volte fa, E quello lì veramente ha delle chance, ma poi abbiamo tantissime altre cose, ci sono dei farmaci che abbiamo studiato per anni per tante ragioni, degli alti ipertensivi, per una ragione un po' paradossale sembra che uno di questi possa funzionare e ce ne sono altri ancora. Io sono molto ottimista sul fatto che nel giro di poche settimane troveremo il farmaco giusto, non credo che siano gli antivirali che si stanno usando adesso. Ma questo delle scimmie è straordinario. Una notizia positiva. Sì, certo, mi sembra di sentire David Quammen. Sai che Mario, ieri c'era David Quammen, ce l'hai fatto conoscere tu con Spillover, ieri da Fabio Fazio, ospite, no? E tutto questo è raccontato nel libro che tu ci hai fatto conoscere. Noi professore Muzzi la dobbiamo ringraziare, la dobbiamo salutare, che dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma credo che ci abbia detto tante cose importanti e insomma anche piene di speranza. Il senso della speranza cosa significa secondo te in questo momento, Mario? No? Il senso della speranza è non farsi prendere dall'angoscia e pensare che finirà. Sono quei foglietti che le persone scrivono. Io credo sicuramente questa cosa finirà. Bisogna vedere come da questa cosa usciremo avendo pagato quali costi. Sì. E se questa cosa qui ci avrà anche insegnato qualche cosa, lo hai ripetuto tu un sacco di volte questa mattina. Cioè, quello è il punto. Che cosa abbiamo imparato e che cosa ci portiamo dietro per non ripetere domani gli stessi errori? Oggi c'è un'intervista, tu parlavi di Conte, ma c'è un'intervista a Prandelli sul Corriere, che a un certo punto dice che l'esperienza ci cambierà. Lui dice, cambierà le nostre priorità, troveremo il tempo per le piccole cose. Serve fare un passo indietro e magari impareremo ad apprezzare cose che ora diamo per scontate. E secondo me questo è fondamentale. No, ma infatti quando l'ho letto ho detto vogliamo anche noi chiamarlo Cesare Prandelli, chissà domani, poi lui può unire Brescia, ha avuto anche i suoi drammi personali, ricordiamo la perdita della moglie, sì. E poi vive nel mondo del calcio, insomma può unire davvero nella sua figura tante cose interessanti da dire. Allora, nel ringraziare il professor Remuzzi andiamo un attimo in pubblicità, tra poco sarà con noi Andrea Bocelli per raccontare anche questa Italia che resiste dai balconi grazie alla musica, anche alla musica, certo, azzurro, no? Tu lo canti azzurro, ma l'hai cantato azzurro in questi giorni? Cosa hai cantato? L'inno di Mameli? Cosa hai cantato? Niente. Va bene, pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan. Sto attraversando la Russia, sono a 5 km da Moscova. In Russia non c'è nulla di coronavirus e ora devo tornare in Italia a prendermi il coronavirus. Milan, ti ho mandato la foto alla faccia di chi vuole i 65 anni in quarantena. Io tutti i giorni da 3 mesi porto il pane da Vicenza Padova e vo e sono ancora qua. Altrimenti non viene nessuno a portarlo. Va bene. Giustamente i nostri italiani che resistono. C'è Gianna che ci chiama da Biella. Gianna, buongiorno. Ah, buongiorno, grazie. Senti, io non vi voglio far perdere tempo. Volevo solo dirvi, se tutti i parlamentari e non quelli che prendono un bel stipendio dovessero lasciare giù due mesi che non vanno in rosso in banca, lei pensi che aiuto sarebbe per il governo e per il debito che abbiamo e per tutti? E si sentirebbero loro, penso, un po' più puliti dentro, perché soldi ne hanno, Va bene Gianna, grazie per la proposta. Non credo che il debito pubblico si abbatta con due mensilità di tutti i parlamentari, anche se sono bei soldini, il debito pubblico è molto più alto. Però questa è la proposta di Gianna. Ma caro Mario Calabresi, abbiamo con noi il grande Andrea Bocelli, maestro. Eccoci Andrea, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. A voi, mi sentite bene? Sì, sentiamo benissimo. Andrea, che effetto fa vedere che dai balconi l'Italia, usati i balconi come nuovi social, affronta questo momento anche dedicandosi alla musica, cantando, stando insieme? Ma in questo caso la psicologia influisce molto, perché una situazione come questa, se fosse dovuta a una decisione psicologica, allora farebbe festa, farebbe gioia. Vista invece, sapendo la ragione per cui è così e fa tristezza, c'è poco da fare. Fa tristezza, è vero. La musica che unisce, ma in questo caso è una delle pochissime armi rimaste. Ma la musica sicuramente aiuta l'anima e l'anima aiuta il corpo, perché quando se si è felici, se si è tranquilli, sereni, eccetera, sicuramente il nostro sistema immunitario combatte meglio. Certo. In questo senso la musica aiuta, poi ci vuole anche un po' di... bisogna essere un po' fatalisti. Io onestamente non ho paura, non ho mai avuto paura di questa cosa, anche se capisco perfettamente che è una situazione che non abbiamo mai vissuto, nessuno di noi ha vissuto prima. Ci sono purtroppo famiglie che in questo momento hanno i loro cari all'ospedale che versano in condizioni precarie, e io ho molto rispetto di questo. Però non so, non ho mai avvertito il pericolo io personalmente, quindi ho ubbidito, mi sono chiuso in casa, però senza nessun timore. Sì, con una sorta anche di fatalismo. Mario Calabresi, tu che... io volevo anche introdurre questo elemento degli Stati Uniti, no? Andrea Bocelli è famosissimo negli Stati Uniti, credo in testa a tutte le classifiche, anche con l'ultimo disco, e lì c'è un presidente americano, Trump, che adesso l'ultima pare che voglia comprare di nascosto dai tedeschi un brevetto per un vaccino, cioè l'idea di dire salviamoci noi. Ecco, la tua America, Andrea Bocelli, come te la immagini quando tornerai, immagino, a fare anche delle tournée, quando tornerai a cantare lì? Ma io sono tornato da poco, ero in America agli inizi di febbraio e nessuno parlava di coronavirus, era l'America di sempre. Tornandoci ora, tra l'altro io dovrei tornarci all'inizio di aprile, perché avrei il 20 di aprile avrei un concerto al Metropolitan che immagino verrà cancellato, adesso vedremo cosa succede. Quindi non so, io spero anche che il virus, arrivando in America, trovando primavera inoltrata, sia già più debole e quindi trovi una situazione più svantaggiosa per lui. Questo io mi auguro, spero, siccome sono un ottimista inguaribile, perciò spero che vada così. Sì, certo che pensare anche che tutto il mondo dello spettacolo chiuso, leggevo appunto di questa notizia della Scala che perde 1 milione di euro a settimana, è terribile sentire queste cifre, anche un dei cittadini senza tutto l'aspetto culturale, senza l'aspetto dello spettacolo, siamo tutti un po' più poveri su questo, no? Cioè questa cosa inciderà secondo me psicologicamente. Bocelli, che ne pensi? Ma sicuramente questa cosa farà riflettere molto. Alcuni ritroveranno il gusto di vivere se non la propria famiglia, ritroveranno il gusto di parlare con i figli, no? E poi, siccome io penso sempre in positivo, intanto ci saranno già, non so se qualcuno l'ha pensato e l'ha detto, ma tutte quelle morti, ahimè, che contiamo il lunedì mattina, no? Quelle morti di giovani ragazzi che escono dalle discoteche, insomma, condizioni non proprio lucide, e poi non arrivano più a casa. Beh, intanto quelle morti lì, in queste settimane, saranno risparmiate, quindi andranno sottratte morti per coronavirus. E io penso che tanti ritroveranno la bellezza di parlare con i figli, con i genitori, insomma, qualcosa di positivo c'è sempre in tutto, no? Sì, basta trovare il lato positivo, certo. Basta riuscire a vederlo, a capirlo. È chiaro. Mario, tu che ne pensi di quello che succederà tra poco? Saremo un po' più poveri nello spirito o più arricchiti? No, secondo me più arricchiti. Secondo me alla fine questo tempo vuoto è un tempo appunto in cui uno, come diceva Bocelli, impara, riprende a parlare, riprende dei discorsi. Mi è arrivata stamattina la foto di un amico che è noto, che non legge mai un libro, che mi ha mandato la foto dell'ultima pagina di un libro e mi ha detto: ho letto un libro per intero. Era preso in giro perché non leggeva mai nulla e ha trovato il tempo per leggere, il tempo per parlare, non so, il tempo anche per cucinare, per stare con gli altri. Cioè, da questo punto di vista è anche un momento di riflessione. Certo, per alcuni è un momento di solitudine terribile, perché c'è tanta gente sola. A me colpiscono due aspetti di solitudine. Uno, che tutte le persone che in questo momento sono ricoverate sono sole, e le persone muoiono da sole, ed è una cosa impressionante. E l'altra, che ci sono tante persone che sono sole, tanti anziani, tante persone che vivono sole in casa, e che quindi a questo punto è una solitudine che diventa molto più faticosa e molto più pesante, e questo non è da poco. Però io continuo a pensare che ne usciremo migliori di come siamo entrati in questa storia. Sì, io credo anch'io così. Non so se Andrea Bocelli riesce a fare le sue cavalcate amate. No, purtroppo. Ho fatto l'ultima domenica scorsa qui sul mare e poi mi sono autorecluso, e quindi ora le cavalcate sono rimandate. Niente che vale. E quando tornerà a farla, la prima gli sembrerà molto più bella di quelle che fa tutti i giorni. Sa che questo non sì. mi giovi una caduta in meno, magari, no? Sì, perché ogni tanto ci racconta che fa delle cadute una volta. Succede. Però, sono d'accordo con il direttore, perché in questo tempo chiusi in casa la lettura è una grande scamotage, no? Questi giorni ho trovato un libro molto interessante, bellissimo, anzi, lasciatemi dire, un libro di sarà 4-5 mila pagine, però perfetto, no, per una situazione come questa. È un libro di una mistica italiana che si chiama Maria Valtorta, così lo suggerisco a tutti coloro che sono chiusi in casa e non sanno cosa fare. E di cosa parla questo libro? Ma si intitola L'Evangelo così come mi è stato rivelato. È un libro che non c'è libro migliore in giorni come questi. Beh, bello. Poi 4.000 pagine, ma uno non può dire non ho tempo in questi tempi. In questi giorni la classica scusa, dire non ho tempo, in questi casi non regge tantissimo. Andrea, noi ti ringraziamo moltissimo. Idealmente affacciandoti al balcone, io la faccio sempre questa cosa, mi vergogno tantissimo. Affacciandoti al balcone, idealmente tu cosa intoneresti? Ma non lo devi fare, non voglio abusare, mattina, no, insomma. Presto è troppo presto, esatto, ma appunto. Sicuramente so di essere scontato, ma conoscendo la situazione in cui si trova il mio paese in questo momento, l'Inno di Mameli sicuramente. L'Inno di Mameli, giusto. Ieri l'ho sentito suonare, ieri quando la gente metteva le luci alle 21 o faceva le... ogni tanto poi c'è qualcuno che fa partire, magari con mancanza di coraggio, poi viene seguito dagli altri l'Inno di Mameli, no? Giustamente, è vero. Per sentirci uniti. Andrea Bocelli, grazie davvero per essere stato con noi, un grande abbraccio e in bocca al lupo anche per questo concerto 20 aprile. Mettiamolo come idea, caro Mario Calabresi. È come dire, se c'è quel concerto vuol dire che tutti ne siamo un po' usciti, nel senso non è tanto. Io Mario, il 20 aprile per me è il compleanno di mia figlia Angelica, insomma, Andrea. No, Andrea Bocelli, forse volevi aggiungere una cosa al finale. No, dicevo che comunque io ho un amico in Cina, un mio ex compagno di classe di banco. Ci sentiamo praticamente tutti i giorni con WhatsApp, no? E lui mi dà notizie fantastiche sulla Cina, dove ormai il virus è debellato. Allora, se sono riusciti là, dove la popolazione è molto più numerosa la notte, dove le condizioni anche igienico-sanitarie non sono esattamente le nostre, Allora ce la faremo anche noi sicuramente. Ce la faremo, andrà tutto bene, come si dice con uno slogan molto molto utilizzato in questi tempi. Grazie davvero Andrea Bocelli, grazie anche a Mario Calabresi, ti devo salutare poco prima del traffico perché abbiamo una sola linea dalla ridotta di Parco. Quindi, Solari, come regalo la linea ridotta. Regalo la linea a Manera dalla ridotta di Piazzale Udine e io continuo dalla ridotta di Viale Monza, che dobbiamo fare questo? Mario, un grande abbraccio, ci sentiamo nei prossimi ciao, giorni. Ciao Alessandro, buona giornata a tutti. Allora, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi Vestagliona Manera ci sarà con noi. Chissà se ha preso il brillantante, io l'ho detto prima come primo messaggio di Radio Londra, Leonardo ha il brillantante, ma sarà così tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Non avrei mai pensato che durante un weekend di quarantena mi potesse mancare anche Alino Milan. Parla Radio Londra. Leonardo ha il brillantante. Oggi è iniziato così la trasmissione. Ho sentito. Ma in verità lo vado a prendere oggi. L'altro giorno poi non sono andato a fare la spesa. Ma allora non oggi... era così fondamentale. Ma perché devi millantare cose? Perché sono stato ligio alle indicazioni sanitarie, ho detto rimandiamo a lunedì, perché immagino che oggi ci sia meno gente a fare la spesa, invece non è vero, oggi sarà tutto pieno perché quelli che non hanno comprato sabato e domenica. Come te. Vabbè, vabbè. Amarezza. Leonardo, però ho visto una foto su Facebook, allora Leonardo si è dedicato alle pulizie di casa, ragazzi. Questo weekend c'erano le sedie, sapete quando uno ribalta le sedie sul tavolo per pulire anche sotto il tavolo, negli antri più oscuri? Bene, ci avrai una casa meravigliosa. No, non ho ancora passato la scopa, ci sono ancora le sedie sul tavolo, adesso oggi con calma faccio. Cioè, hai messo le sedie sul tavolo, hai fatto una foto per Facebook per far vedere che... Sì, ma adesso le sedie sono ancora lì, poi con calma scoperò, poi passerò lo straccio. Posso dire che l'ho scritto ieri anche su Facebook, non sopporto più questa retorica del che bello stare a casa, no? Ci sono tutti, sì, soprattutto i musicisti. È insopportabile. Io dico, stare a casa è necessario, ma non è bello, è una gran rottura di coglioni, diciamolo, questa è la sostanza. Sì. Invece pare che tutti i musicisti, quelli che hanno gli studi in casa, magari la piscina, il parco, è bello stare in casa. se vivi in un castello, se abiti attenzione. In un castello, se abiti in una città, ecco, se la tua casa è una città dove ci abiti tu e i tuoi familiari, è bello, se no è una gran rottura di palle stare in casa. E quelli che ci vogliono dire che invece è bello, insomma, ci trattano come dei bambini, ecco, ci stanno infantilizzando. Lo sappiamo, invece no. C'è sempre la funzione di trattarci come dei bambini di 3 anni. Ma invece maledetti, tu secondo me cani. A casa, ma, no, ma scusa, cioè, lo so, Jovanotti prende la chitarra, suona e quella. Sì, è ma Jovanotti abbia adesso con tutto il bene che si può volere a Jovanotti, abiterà in una casa che ha anche un parco privato, la palestra. Beh, un parco privato, non lo so se avrà un parco privato. Ma no, tu vai a vedere la casa, secondo me, ma tutti i musicisti hanno un parco privato, tutti quelli. Ma come fai un disco? Fai un disco subito, di default ti danno un parco privato, guarda che funziona così. Un parco così. Privato? Sì. Cioè lo metti disco nel di contratto. Platino. Sì, parco disco privato. Di platino, parco privato. Allora, se abiti in una casa così va bene, ma se stai in una casa normale. Va bene, Leonardo, hai qualcosa da comunicarci in maniera ufficiale, no, basta, con una base vado sotto? Via, vado via, esco, non posso uscire, vabbè. Allora, via, vabbè, dai, basta, fatemi partire la base. Allora, il rischio è altissimo in tempi di coronavirus. Non è tanto e solo quello del coronavirus, c'è un altro rischio più grave di cui non parla nessuno. Il vero rischio in questo periodo di isolamento casalingo forzato è quello di abbruttirsi. Non si va al lavoro, se non si va al lavoro stare sempre a letto fino a tardi, cominciare a non cambiarsi più la biancheria intima, puzzare così tanto che i vicini di casa chiamano i carabinieri perché pensano che dietro la porta ci sia un morto. Anche se in effetti un morto, anzi una morta c'è, è l'igiene personale che, mani a parte, che si lavano di continuo, è morta a causa di quelli che, stando in casa, magari da soli, non si lavano più. E quindi l'igiene personale malinconicamente muore, non di coronavirus, ma col coronavirus. La tentazione in effetti è forte, cioè abbandonare la doccia, dimenticare il sapone, tenere la stessa canottiera per un mese, parlare a monosillabi, guardare la TV, mangiare e ruttare. La vita ideale per molti maschi. Le donne forse hanno un po' più il senso della presentabilità, dell'essere comunque dignitose, anche se non devono andare in ufficio. Ma io sono sicuro che anche per molte donne la tentazione c'è: smettere di pettinarsi, non lavarsi più i capelli, lasciare che diventino dei nidi per animali domestici, cominciare esse stesse a ruttare rumorosamente mentre si stravaccano sul divano davanti alla TV. Insomma, se per l'uomo, il maschio, questa è un'occasione straordinaria per giustificarsi nei propri difetti, per la donna è una prova quasi inedita. L'uomo stavolta ha un alibi, può lasciare andare un po' di più perché c'è questa situazione, ma essendo già portato e abituato all'abbruttimento, in qualche modo ha già degli anticorpi, sa che l'abbruttimento non può più di tanto impossessarsi di lui. A un certo punto anche il maschio più cinghiale nell'intimo procederà quasi inconsapevolmente verso la doccia, cambierà maglietta della salute, si farà almeno un accenno di barba, per rimanere poi con un abbruttimento intermedio ma comunque accettabile. La donna no. La donna in questa situazione nuova non ha anticorpi contro l'abbruttimento e potrebbe precipitare in un vortice senza fine. È vero, potrebbe risultare asintomatica e mantenere quindi una certa presentabilità. Potrebbe perfino profumarsi sul collo, dietro le orecchie, ma nei casi più seri potrebbe dimenticare completamente tutto quello che ha fatto nella vita e diventare peggio del peggior uomo cinghiale. E allora capiterà di vedere prima o poi donne trasformate da settimane di isolamento con tute unte, capelli macchiati di salsa di pomodoro, che ruttano gioiosamente alla luna o nella tromba delle scale per divertirsi un po' o dalle finestre. Ovviamente i casi gravi non saranno molti, ma poi non ci saranno abbastanza estetiste disponibili per tutte quelle che ne avranno bisogno. Perciò, donne che potreste contrarre il virus dell'abbruttimento, osservate le regole necessarie di sicurezza. Non fatevi contagiare dal vostro uomo abbruttito mantenendo almeno un metro di distanza. Lavatevi più volte non solo le mani ma anche le ascelle. Verificate ogni 6 ore lo specchio se il vostro aspetto sta assumendo qualcosa di irreparabile. Tutto questo per non cedere definitivamente al fascino discreto e un po' puzzolente dell'abbruttimento. Infatti Simone da Varese ci scrive: sto ancora dormendo ma ascolto in diretta Milan e Manera, aggiungo io. Caro Leonardo, questo è che brutta immagine, però sai che circolano delle foto, gli uomini dopo il 3 aprile, le donne dopo il 3 aprile, e ti lascio immaginare le foto che cosa rappresentino. C'è Roberto che ci chiama da Milano. Buongiorno Roberto, prego. Buongiorno a voi. E niente, volevo fare una domanda, visto che siete una radio anche molto importante. Io lavoro nel settore trasporti, sono autista, come potete immaginare in questo momento chi lavora con gli alimentari deve lavorare, per cui... Certo. Ora, cioè lei è un autotrasportatore e quindi trasporta alimentari, genere di prima necessità. Sì, io consegno nel supermercato. La domanda era questa: siccome ormai poi hanno fatto delle deroghe a tutto, no? Noi dobbiamo rispettare dei tempi di guida, cioè nella nostra professione funziona così. Quindi dobbiamo rispettare dei tempi di guida di sosta di fine settimana. Ma in questo periodo, visto che comunque manca anche il personale, si fa fatica, per sopperire al problema e consegnare in questi supermercati, insomma in tutti i luoghi dove bisogna consegnare, non sarebbe opportuno derogare anche per chi guida la possibilità di lavorare tutti i sabati e quindi di non rispettare quello che poi quella che è la sosta di fine settimana? Sa Roberto, non le devo rispondere io, però c'è una questione di sicurezza, cioè questi limiti vengono fatti, lo sa per primo lei, per garantire una sicurezza a voi stessi intanto, no? Perché poi dopo i colpi di sonno, il rischio di incidenti aumenta. Lei sarebbe per questo, per derogare? Ma io sarei per derogare, nel senso che siamo in una situazione già dove manca il personale che guida, già manca la maggiore era. Poi faccia conto che in questo momento non è che di coronavirus gli autisti non si ammalano, Poi noi che siamo anche, come dire, viviamo in situazione anche abbastanza difficile, perché le piattaforme sono, voglio dire, sono un po' il macello dei lavoratori, c'è un mondo dentro. Quindi dico, in questo momento qua la possibilità anche di poter lavorare e sopperire a quello che è l'esigenza di coprire, certo, i supermercati e riempirli, di portargli le merci. Certo, non, certo, sta parlando di giocattoli, sta parlando di alimentari, cioè derogare a chi porta alimentari, perché sennò sarebbe un problema. No, no, ma è chiaro, Roberto da Milano ha questa proposta, derogare, adesso derogare sui limiti di guida, la ringraziamo Roberto. Non lo so Leonardo, certo c'è da dire che sono tante le categorie di gente che lavora. Io mi sono affacciato anche oggi al balcone qua su Viale Monza, anzi domani, sto aspettando un cavo di rete da 10 metri che ho ordinato per cercare di trasmettere dal balcone. Così coinvolgo in diretta anche il mio edicolante che sta sotto, Luca. Però vedo che c'è tanta gente che gira. C'erano tante macchine questa mattina, meno sui mezzi pubblici, e gente che va in giro anche a piedi. C'è tanta gente occupata nei settori comunque primari, no? Anche semplicemente alimentazione, giornalai, eccetera. No, certo, i dipendenti pubblici, gli uffici privati, gli uffici dei privati sono aperti, sono tante appunto le attività ancora aperte. Allora Leonardo, dobbiamo andare al giornale radio, sai che oggi ti saluta Danilo Di Trani, è in regia, lui in assistenza oggi in regia, dopo Giorgino De Luca, anche lui voleva mandarti un abbraccio. Maledetto Danilo Di Trani, ma insomma i fonti mi creano sempre problemi, anche Danilo Di Trani sarà così. Un assistente in regia, già il nome non mi piace, Danilo, ma che nome, no. Perché Danilo è un non nome con un altro, no. Vabbè, è un nome con un altro, magari a lui non piace Leonardo, cosa c'entra? Può darsi, dobbiamo picchiarci. No, adesso, ma poi com'è finita con Giorgino De Luca, gli hai rigato la macchina? No, ma vedo che non c'è più, quindi avrà capito l'antifona. Va bene, andiamo al giornale radio, va che è meglio. Uno, nessuno, 100 Milan. Brava Manera, stai a casa, pigli i soldi, investaglia. Camma faticava tutta la giornata, ma gira tutta Lombardia, coppa un camion, un furgone, non prima manca pavata. Si sta a casa, Manera, ma per favore, va, state un po' che zitto, va. Bravo Manera, è una gran rottura di coglioni, bravissimo. Ma scusate, Manera c'ha brillantante, cos'è diventato, una lavastoviglie? Tra l'altro, cari amici, voglio ricordare che lui è uno di quelli che ha il parco a casa, cioè con tutti gli spettacoli che ha fatto. Lui ha un parco privato con faggi, querce, platani, pipistrelli, ha due canguri anche. Una volta, adesso non li ha più, ma per 2 o 3 mesi ha tenuto 2 canguri, così. Alimenta l'odio nei miei confronti, che invece pensavo di andare a giocare con mio figlio, ma non so se si può, sotto nella corsia, sì, dei box. Sarà consentito andare a giocare a pallone nella corsia dei box? Dai, ma è all'interno del condominio, ma sì, al limite ti arriverà qualche secchiata d'acqua da qualche condomino molto arrabbiato. Tra l'altro, scusami, devo dire una cosa, perché mi gira intorno mio figlio. Mattia, scusa, non hai la lezione di cos'è, di italiano? No, perché gli si scarica subito il telefono, perché tu non me ne compri uno nuovo. Cioè, adesso è colpa mia, non ho capito. Sì, è colpa tua. Vabbè, e quindi? Va bene. E quindi, ecco, mi fa cenno che gli devo dare il mio cellulare. Allora, comunicazione di servizio, non ho neanche il cellulare in questo momento. Cosa succede? Ti fai un uovo fritto? No. Ragazzi, non posso fare niente, che c'è tutto da ridire. Casa Manera, casa mia. Ho preso un bicchiere d'acqua, semplicemente l'ho messo dentro una tazzina con i cuoricini, ecco, una tazzina con i cuoricini l'ho messo. Ok, come mai? Chi è che ti ha regalato una tazzina con i cuoricini? Avrò avuto anch'io qualche affetto nella vita, anche se adesso non sono, no? Porca miseria. Beh, sì, sì. Cioè, ne avrei avute anche 45, questo è quello che ci hai raccontato almeno. Vabbè, tra l'altro, ecco, comunicazione di servizio, non ho il cellulare, lo dico alla mia redazione, quindi non posso comunicare con nessuno in questo momento. Lasciami dire, sei tu che dici 45, questi sono numeri a caso detti da te, io non ho mai detto nessun numero, che pesantezza, adesso vado via, ciao, abbandono lo studio, no, non abbandono lo studio perché non sei nello abbandono studio. Abbandono lo studio. Non l'ho interrotta quando stava parlando lei, lei non mi interrompa mentre sto parlando io. Buonista. Non sono tempi per fare questo tipo di polemiche, signor Garosio. Venga a trovarci tra un 3, 4, guardi, 5, 6 vuole, anni. Le spiego anni. L'origine del coronavirus. Sì, è stato creato dai cinesi. Per quale motivo è stato creato dai cinesi? Non è stato creato perché dai cinesi. Si capirà tra poco che l'unico modo per eliminare il coronavirus è friggerlo. A quel punto sono i friggitori più bravi del mondo? I cinesi. Vabbè. E a quel punto si diffonderanno friggitorie di coronavirus in tutto il mondo e loro domineranno il mondo. Questa è la verità, le verità nascoste. Buonista. Sì, partito super sovranista italiano. Aspettavo la canzoncina. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di che pensa se gli italiani cantassero alle 18 dai balconi questa canzone, l'inno del pissi, no? Speriamo proprio. Sai che questa cosa ai balconi è bella, perché prima se andavo sul balcone a cantare a squarciagola, se prima andavo a cantare a squarciagola, cioè, va che matto. Adesso dico, oh, che bravo Fior, che bravo ragazzo. Bravo, bello, italiano, bravo italiano, sì, viva l'Italia. Sì. Livia da Torino, buongiorno Livia. Buongiorno carissimi, siete molto bravi, sì. Soprattutto in questo periodo. Grazie. Sentite, volevo chiedervi una cosa, io ho letto in formiche.it, dove c'è Roberto Arditti, che invitate anche voi, la notizia che stanno facendo una grossa esercitazione NATO qui in Italia e in Europa, con mezzi di tutti i tipi, compresi sommergibili, ho letto. Allora qua Roberto Arditti io lo stimo, quindi non credo che pubblichi una fake news. Ecco, io vorrei chiedere, come me altri miei amici, come mai nessuno ne parla? Ma guardi, in realtà Livia ne hanno parlato molti, c'è questa operazione della NATO prevista per aprile, si chiama credo Defender Europe, nella quale bisognerebbe anche simulare un'eventuale difesa di fronte a un attacco della Russia, ma sono esercitazioni che erano state programmate da tempo, l'Italia peraltro non parteciperà, mi risulta, a questo tipo di simulazione militare, era prevista da tempo. Che cosa è successo, Livia? Che in questi giorni si è sparsa, ed è qui la parte di fake news, l'idea del complotto. Perché allora c'è questa invasione o questa esercitazione militare? Chi la lega all'emergenza del coronavirus? Sarà mica che gli americani hanno diffuso il coronavirus per poi arrivare a simulare questo attacco, in realtà poi invadere la Russia? Ecco, io lì mi fermo davvero, perché ci sono tante interpretazioni. Queste sì, fake, riguarda questa esercitazione militare che invece è reale ed era stata programmata. Si ferma perché non ha coraggio di guardare la realtà, glielo dico io, questa è la realtà. Eccolo lì. Cioè, qual è la realtà, Garosio? Ce la dica lei. È quella che c'è un complotto internazionale degli altri paesi contro l'Italia, della Cina e degli Stati Uniti, ovvero i due padroni capitalisti imperialisti del mondo. Vabbè, sentiamo Stefano, che è un agricoltore, mi dicono, dalla provincia di Verona, agricoltore stupendo. Cosa sta coltivando, Stefano? Sì, intanto buongiorno carissimi. Buongiorno. E mi complimento per la vostra allegria molto elegante, non volgare. Grazie. E molto, molto piacevole. E io in questo momento mi trovo in campagna, sono, produco vino, produco il Soave, che è un grande vino italiano bianco di OP. Ottimo, ce le mandi una cassa, per esempio. Ma, no, no, sempre per in allegria, in allegria. No, sì, no, non, si usa, non si usano questi mezzi pubblici. Per due casse, grazie, uno per manere. Scherzo. No, Milan non può riceverle perché è giornalista. No. Io che sono un cane sciolto posso ricevere regali anche dalle mazzette, soldi. Tu sei un cane, basta, un cane maledetto. Prego Stefano, prego, prego. Allora sto qua portando la vigna e con la radio ascolto questo momento difficile della nostra esistenza. Io ho 52 anni e credo che è la prima volta che mi trovo in questo, in questa situazione dove... Sì. Io nel mio piccolo, è un'azienda agricola familiare dal 1900, e dal mio piccolo esporto circa il 70% della mia produzione del buon Soave. Come farà adesso? No, esatto, ho degli ordini già qui da 2 settimane, Canada e Polonia, che purtroppo non vengono ritirati. Non vengono ritirati perché c'è la difficoltà nel farlo, oltretutto, e poi, mi creda, si sparge la voce che i nostri prodotti alimentari devono avere con sé un certificato contro il coronavirus. Sì, guardate, questa è una cosa veramente assurda, no? Come se il coronavirus, come se il virus si diffondesse attraverso il cibo, attraverso i pacchi, è una cosa incredibile. Guardi, sì, però io la devo fermare, Stefano, perché dobbiamo andare al traffico, abbiamo 2 ospiti già in linea. Leonardo, cosa volevi aggiungere su questo? Ieri sera comunque Burioni, a che tempo che fa, ha consigliato quando si torna dal supermercato, lui dice io una passata, una pulita alle confezioni di plastica che ho preso al supermercato comunque le darei. Ecco. Che dobbiamo fare? No, ma sì, ma ho capito, niente, ma una spedizione, Ti riferisco a quello che ha detto lui, Ma il supermercato, ma la spedizione va in aereo, l'aereo va, non è pressurizzata a meno 30 gradi quando va in quota, ti pare che il virus possa resistere ore e ore e ore, no, a questi, certo. Non lo so, mi sembra un po' su, no. Comunque va bene, dai, beviti un bicchiere d'acqua, traffico. One Express, il pallet Express. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Io non riesco a capire, voi vi lamentate perché non fate niente, io col coronavirus sto facendo il doppio di prima, anche perché non c'è un cazzo da fare, quindi cosa faccio? Lavoro in campagna, anche ieri lavoro tutto il giorno, non puoi neanche andare a prendere un caffè. Lo so. Puoi chiedere di portarti del cibo a casa, sapete che è una tematica sulla quale io torno spesso. Io nel vedere le strade vuote e i rider, come si chiamano, che scorrazzano a destra e a sinistra per portarvi a casa panini, pizze, cibo, per carità, astengo il giudizio e vorrei invece chiamare in causa Angelo Avelli e Tommaso Facchi. Dunque, Angelo lavora per Deliverance Milano a Milano, quindi Angelo, buongiorno. Buongiorno. E Tommaso invece da Riders Union Bologna, sono anche coloro che avevano incontrato Di Maio ai tempi delle trattative. Tommaso, buongiorno, torna con noi Tommaso Facchi. Buongiorno. Allora, loro chiedono sicurezza, come tutti i lavoratori, solo che loro sono a contatto con le persone perché vi portano a casa facendo i rider il cibo, quindi devono poi ritirare il contante, ci sono il contante, i soldi, il contatto fisico, la prossimità. Allora, Angelo, voi vi sentite di lavorare in sicurezza? Immagino che gli affari siano aumentati, le richieste siano aumentate in questi giorni, Angelo. In realtà no, non sono aumentate le richieste, delle consegne a domicilio e le piattaforme, le multinazionali si sono attrezzate per offrire questo servizio, però in realtà è in calo il numero delle consegne. Come mai? Cioè, mi sfugge questa cosa, cioè se sono aumentate le richieste di consegne a domicilio, come mai sono diminuite? No, è perché le persone... E poi molti più ristoranti sono chiusi. Ah, ok. Ah, certo, perché molti ristoranti sono chiusi, le persone sì, sono anche in casa. La linea è un po' forse da perfezionare. Vorrei sapere da Tommaso se a Bologna è la stessa situazione. Sì, è vero, diciamo anche qua stiamo notando in realtà un calo, secondo noi è dovuto sia dal fatto appunto che tante persone comunque stanno in casa, quindi sostanzialmente hanno anche il tempo di cucinare e di prepararsi il cibo, dall'altra secondo noi sta funzionando anche un po', diciamo, questo boicottaggio, se così vogliamo chiamarlo, o comunque una sensibilizzazione che c'è anche tra i clienti, per cui non è così necessario, indispensabile ordinare il sushi o l'hamburger gourmet e rischiare in questo modo di contagiarsi, visto appunto che noi siamo considerati da due giorni a questa parte un servizio pubblico essenziale. Questo ci sembra insomma ovviamente inopportuno. Ecco, voi dite inopportuno, vorrei capire dal punto la vostra posizione dal punto di vista delle rivendicazioni di lavoratori e la sicurezza. Iniziamo ancora da Tommaso, poi Angelo. Tommaso, rivendicazioni allora, e sicurezza, vorreste certo, non lavorare in questo momento? Certo, è semplicissima la cosa. Se c'è il rischio, come c'è, di contagio, vista la situazione drammatica che stiamo vivendo, noi non vogliamo essere considerati lavoratori di serie B, non vogliamo essere carne da macello e quindi lasciati in giro nel locale ad aspettare gli ordini insieme magari ad altri riders. Andare nelle case di tutta la città portando appunto un bene che non è di prima necessità secondo noi, perché appunto non parliamo di acqua e pane, parliamo appunto di cose specifiche che non sono indispensabili. E se fosse quello di portare appunto cibo a casa delle persone, un servizio pubblico indispensabile, essenziale, di certo non ci deve pensare l'ultima ruota del carro, cioè il povero fattorino sfruttato per 3 euro l'ora, ma ci dovrà pensare lo Stato, la protezione civile. Questa mi sembra una cosa, come dire, di buon senso, e perciò noi diciamo prima la salute, prima la salute anche per noi, e vogliamo avere il diritto di quarantena, quindi stare a casa come certo. gli altri lavoratori. No, ma certo, ma io devo dire, io la mia crociata tra virgolette a dire sempre ho detto vuoi l'hamburger, vuoi la pizza, vuoi il sushi, esci di casa e vai a prendertelo, questo in situazioni normali. Invece vorrei capire, Angelo, c'è ancora chi adesso, ed è legittimo, vi chiama e dice voglio il sushi a casa, cioè in questa situazione? Sì, c'è ancora qualcuno che ordina, però è sicuramente diminuito il numero delle persone che ordina da casa, sia perché preferiscono preparare i propri pranzi e le proprie cene a casa, anche perché hanno più tempo a disposizione, quelli che sono a casa e non lavorano, e poi perché c'è molta paura comunque, c'è molta preoccupazione a proposito della possibilità di contrarre il virus. Il problema è che le aziende non hanno ancora fornito i dispositivi di protezione individuale, che dovrebbero essere invece garantiti secondo la legge e secondo il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ma sì, questo è abbastanza. Patatine fritte sì. Non sono un diritto. Sì. Ecco, esatto. Leonardo, tu cosa ne pensi? Cioè, in questo momento forse bisognerebbe tutti anche mettersi una mano sulla coscienza e dire sì, voglio il sushi a casa. Anch'io lo vorrei mangiare un bel sushi adesso, però mi hai chiuso chiuso il ristorante e non me lo mangio. Sì, ma a parte quello mi sembra che avere i dispositivi di protezione sia veramente il minimo. Ma il minimo, il minimo. Altrimenti il minimo. Sono veramente persone... si è considerati lavoratori di serie B e non è così. No, certo, sono persone, ricordiamo, che entrano in contatto tutti i giorni con persone che non conoscono, le cui condizioni di salute nessuno conosce, perché arriva la chiamata. Allora, facciamo certo, così. Infatti, su questo aggiungo che non è solo una questione nostra, ma anche del cliente. Cioè, diciamo, è una questione che riguarda tutti quanti. C'è la regione Campania, ad esempio, che ha sospeso le consegne a domicilio, il food delivery, perché come dire, un team di esperti, diciamo, ha detto che c'è il rischio contagio in questo modo. Perciò noi quello che chiediamo a livello nazionale è la sospensione, in questo momento drammatico, del food delivery, delle consegne a domicilio, perché secondo noi non è un servizio di prima necessità, un servizio essenziale. Io sono assolutamente d'accordo con voi, per quanto possa servire, se possibile cercheremo di portare avanti questa vostra istanza. Ricordo, Angelo Avelli, Deliverance Milano, e Tommaso Facchi, Riders Union Bologna, sono due gruppi auto-organizzati di rider che sono nati per rivendicare diritti, per autotutelarsi, per cercare di portare avanti rivendicazioni sindacali. Vi ringraziamo e ci sentiamo nei prossimi giorni per vedere se ci sono sviluppi. Caro Federico Taddia, eccoci qua. Ah, io devo dire che anche oggi ho detto che chiudiamo alle 11, ma perché ce l'ho proprio, come dire, in default. In realtà chiudiamo alle 10 e mezza questa settimana perché c'è Nicoletta Carbone con i suoi esperti per parlare di coronavirus e rispondere alle vostre domande. Federico, adesso tu però ci devi dire... Oggi, sì, ecco, oggi voglio vedere se Federico ha da proporre un gioco fattibile. Fattibile veramente, fattibile. Federico. Vediamo, ci propone noi, giochi a casa. Non come il metro lento dell'altro giorno, che non era fattibile. Era ottimo, il metro lento. Era ottimo, Federico. Il metro lento. Vai, Fede. Allora, continuiamo a fare le Olimpiadi in casa, in attesa di capire cosa succederà con le vere Olimpiadi. E oggi, pensando anche a Leonardo, che andrà a comprare il cantante, facciamo la maratona. La maratona, cioè con due N, con due N. Con due maratona. N, certo. Maratona. Sono tutti giochi testati, quindi non... Sì. Okay. Maratona, attenzione. Maratona. Cioè... Allora, come sempre all'interno della casa, non quella col castello e il parco, ma nelle nostre normali case, facciamo un piccolo tragitto che è il percorso di gara, quindi con una linea di partenza e una linea di arrivo. Poi servono tre confezioni di tonno per ciascun giocatore. Ok, andate a fare la spesa, sono tre scatolette di tonno, insomma. Ma vuote? No, piene. Meglio piene, perché vuote ci si potrebbe tagliare, poi piene sono un po' più pesanti, esatto. Non scivano. Federico, Federico, va bene tonno sott'olio, meglio il naturale, con un goccio d'acqua. Pinne gialle, la corsa pinne gialle, perché quello è più veloce, pinne gialle, vai. Devono essere della stessa dimensione per tutti i concorrenti, sennò qualcuno è vantaggiato e altri sono svantaggiati, non possiamo partire con i litigi domestici. E dopodiché si mettono, ogni concorrente ha le sue tre lattine, le tre scatolette di tonno, le potete infilare dentro a dei calzini per evitare di rovinare il parquet. Questo lo faccio per i pavimenti in legno. Te lo chiedo per me, grazie. Esatto, ogni scatoletta nelle calze, così. Dopodiché al via i concorrenti, ragazzi, possono camminare solo sulle scatolette di tonno, quindi avranno il piede destro su una scatoletta, il piede sinistro sull'altra scatoletta, e c'è ovviamente una scatoletta libera che puoi appoggiare davanti a te, dopodiché mettere il piede su, una sorta di staffetta se uno tocca col piede verrà per terra, mi verrà la sciatica. Federico. Federico, ecco, oltre a... non gli piace. No, ho detto, volevo chiedere a Federico. Gioco pericoloso, che è pericoloso, non hai altri da fare. Eccolo lì. Vabbè. Niente, non ce la facciamo. No, invece secondo me questo mi piace tantissimo. Io faccio fare a Mattia Angelica assolutamente oggi. Vabbè, il percorso è breve, però 5 metri. Sì, tipo. Ma sì, 5 metri, poi puoi mettere qualche ostacolo, qualche deviazione, qualche zigzag se vuoi. Ovviamente se uno cade, appoggia la mano per terra, torna al via. Riparte chi arriva prima, via. Certo. Quindi, insomma, questa è la maratona, a me piace. Maratona. Poi vi propongo la chiappa a schermo, visto che i nostri ragazzi sono abituati ormai a vedere il mondo attraverso i display. Allora, numerate tutte le finestre che avete in casa, quindi la finestra 1, finestra 2, finestra 3, finestra 4. Il giudice del gioco, in questo caso di solito mamma o papà, andate nelle varie finestre e segnate su un foglietto 5 cose che dalle varie finestre si vedono. L'edicola, un fiore, una macchina gialla. Date 2 minuti ai ragazzi per andare a vedere in tutte le finestre quello che vedono, tornano da voi e voi chiedete le 5 cose che devono aver visto, da quale finestra devono corrispondere. Finestra 1, finestra 2, finestra 3, finestra 4, finestra 5. Beh, questo è bello, anche un gioco di memoria, sì. Ma a Milano non funziona molto perché si vede quasi sempre il muro dall'altra parte, cioè muro. Invece no. Il problema di Leonardo, per esempio, è che lui vivendo in un parco ha 400 finestre, lui come fa, per esempio, con suo figlio? È una grande prova di memoria. Esatto, perché non è rockstar, come ci diceva giustamente lui, lo studia il parco. Grazie Fede. Domani ci regali altri 2 giochi. Oggi la maratona la voglio fare, non lo so te Leonardo, è che mi manca il tonno. E come faccio? Non mi piacciono adesso? I giochi di Federico Taddia, sono pericolosi. No, ma che pericolosi, figurati. No, è che io manca il tonno. Vabbè. Senti, c'hai mica del tonno, me lo porti dal mercato nero, la ridotta di Piazza Udine. Mi prendi del tonno? Vado a fare la spesa oggi. Sì. Pinne gialle, grazie. Noi ci troviamo domani, Grazie. Ciao.